Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, tiene banco sempre la politica, come era immaginabile, e tiene banco anche, dopo il venir meno della fiducia del PDL al governo Monti, e tiene banco anche sui mercati. Non è un caso infatti che l'Italia oggi sia la borsa di Milano quella che perde di più, -1,20%, Parigi -0,15%, Francoforte -0,50%, Londra +0,07%, e non poteva essere altrimenti. È un periodo che Londra è modello James Bond come titoli, come indice. Da noi di nuovo pesante A2A -3,30%, Mediaset oggi -3,20%, in maniera diametralmente opposta a quanto fatto ieri, una volta appresa la notizia che Berlusconi si sarebbe ricandidato. Mediolanum -2,90%, Saipem -2,70%, Mediobanca -2,5% come Ansaldo, l'1,80% lo perde UniCredit, ma anche Tenaris e il Banco Popolare. L'1,60% è il calo di Fiat Industrial, di ST Microelectronics e di Enel. 1,5% lo perdono Generali, Intesa San Paolo. Chi guadagna? Solo in pregilo, +3,30%, Campari +0,60%, Parmalat +0,40%. Lo spread come va? È stabile, ossia è risalito, ha preso 3 punti da quando... 30 punti da quando è arrivato l'annuncio di Berlusconi. Ripeto però, per evitare fraintendimenti, e poi adesso si arriva verso la campagna elettorale, lo spread a 3,30 non è ancora accettabile, ma è un livello più basso di quello avuto in molti mesi anche del governo Monti, per cui non iniziamo a dire, come hanno scritto alcuni giornali, Berlusconi scende in campo, riparte lo spread. 30 punti o 20 punti, per essere proprio onesti, in questi mesi sono stati acquisiti anche per notizie molto più banali, anche per notizie che arrivavano dall'Europa, per cui non è l'effetto spread. Io su questo vorrei mantenere il profilo di massima correttezza e onestà, obiettività non è degli uomini, ma onestà sì, di questo programma. Non diciamo che lo spread è risalito perché Berlusconi ha annunciato che torna a candidarsi. Ha avuto un risalito di 20-25 punti, ma non sono una cosa enorme rispetto. Dopodiché vedremo nei prossimi mesi come verrà gestita questa apertura della crisi di governo. È attualmente a 326 punti base, 100 punti di differenza con la Spagna, quello che è il termometro per capire l'affidabilità di un paese. Ancora parleremo del rapporto Censis con il presidente De Rita. Il Censis, sono due le fotografie che vengono scattate sul nostro paese. Una è quella dell'Istat ogni anno, che però è statistica, prende i numeri e li aggrega e li elabora. L'altra è quella del Censis, che invece è una fotografia più di analisi qualitativa, va a vedere il cambiamento nei comportamenti, negli atteggiamenti, nel modo di pensare, nei valori, non solo numeri. E noi usiamo come ogni anno tutte e due. Il Censis, che ha sempre questo linguaggio, questi titoli molto immaginifici, quest'anno parla di un popolo, cioè quello italiano, che si sta riposizionando. L'anno scorso il giudizio era molto più scettico, un paese schiacciato dalla crisi. Però in questo caso parla di una popolazione che si riposiziona, anche se dice e denuncia come il rapporto tra politica e società sia un rapporto ormai da separati in casa, sempre più lontane. E poi il crollo della spesa delle famiglie, il fatto che gli italiani tornino ad andare in bicicletta, vendano l'oro o alcuni gioielli in casa, e anche se riscoprono l'ortaggio. E via così. Ne parleremo con De Rita perché vorremmo sapere anche che cosa pensa di quello che sta capitando a livello politico. Ancora, per quello che riguarda i costi della politica, abbiamo la nostra consueta rubrica, e di borsa abbiamo già detto, ma poi parleremo più ampiamente tra circa mezz'ora. Mercati chiusi, l'euro segnale a quota 1,2943 dopo che dall'America è arrivato un dato peggiore anzi scusatemi, migliore del previsto, ossia la disoccupazione americana è scesa a livello più basso da 4 anni grazie a un aumento a sorpresa delle assunzioni. La disoccupazione è scesa dal 7,9 al 7,7, 146.000 posti di lavoro in più in America. In Europa, non voglio far polemica, ma forse anche grazie a misure solo di tasse e taglio al welfare, tasse e tagli, la disoccupazione continua in maniera costante ad aumentare ogni mese, e non solo in Italia, in tutta Europa. Ieri abbiamo visto la Francia avere un nuovo record di disoccupazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, al di là delle notizie che abbiamo già ricordato, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, oggi ha tagliato le stime anche sulla Germania. Ai ai ai ai, più 0,4%, la locomotiva rallenta, e a noi non fa piacere, perché la locomotiva ci vuole per un treno. L'importante è che la locomotiva non pensi di essere solo lei a contare. Noi modestamente l'avevamo detto: se continuate a deprimere i consumi, la domanda in Europa, nell'area euro, prima o poi la Germania non esporterà più nulla o esporterà molto poco. Quello che si sta verificando è questo. Nel 2012 la locomotiva va piano, crescerà solo dello 0,7%, per carità, meglio di noi che perderemo il 2,5% di PIL, però non è una gran crescita, anzi è stagnazione pure in Germania. E l'anno prossimo più 0,4%, ancora meno. Forse anche in Germania qualcuno si convincerà che bisogna aprire la scarsella, aprire la borsa. E cala, a sorpresa, in Germania anche la produzione industriale, flessione del 2,6% dopo l'1,3%. E rispetto a un anno fa la Germania sta facendo meno 4% nella produzione industriale. Per cui, attenzione, ripeto l'invito, attenzione, nessun uomo è un'isola, nessun paese è un'isola in questa area euro. John Donne. Degli accertamenti, veniamo in Italia dalla Guardia di Finanza, nella società italiana di Facebook, ha già raccontato il nostro GR. Facebook, tra l'altro, è il modo in cui potete contattare questo programma, assieme anche agli sms al 349-238-6666. Non c'entra nulla, ma mi veniva facile dirlo adesso. Sulle spiagge italiane, il WWF stima che i 5 anni di proroga delle concessioni balneari introdotti dal maxi emendamento, il governo era contrario, ma la lobby, c'è anche la lobby dei balneari in questo paese, è molto forte. Potrebbero costarci, come multe europee, 1,2 miliardi. Ora io voglio dire, se dovesse essere così, io penso che non sarà così, ma se dovesse essere così, i deputati che hanno fatto questo emendamento dovevano comparire con la faccia, perché tu non puoi fare un emendamento che va a violare le norme europee, ci becchiamo una multa che paghiamo tutti noi, 1,2 miliardi, un po' come con le quote latte, se qualcuno si ricorda il tema. No, e poi tutti scompaiono, riappaiono con le liste bloccate, vedremo come si andrà a votare, tanto sarà il porcellum, no? Ah, nomi e cognomi, se becchiamo la multa, se no, fatti loro. Le notizie sulla crisi del Censis, abbiamo già detto, le notizie sulla crisi. Due notizie ancora però che riguardano Fiat. Il mercato negativo taglia 1500 posti di lavoro la Fiat in Polonia, nello stabilimento di Tinci. Oggi sempre sulla Fiat il ministro Fornero ha detto: prendo per buono Marchionne, ovvero che i piani in Italia sono confermati, ma chiederglielo, no, non può rinunciare all'industria manifatturiera, non può rinunciare ad essere un paese con l'industria auto. Ok, prendo per buono Marchionne, ma che prendi due paghi tre, prendi tre paghi due. Io sarei sempre dell'idea che un ministro alza il telefono e dice: caro Sergio Marchionne, confermi tutto? Sì, Marchionne ha confermato tutto. Nel frattempo l'operazione, anche qui ve l'hanno ricordato i nostri GR, in cui Andrea Bonomi ha acquisito l'Aston Martin, la macchina di James Bond, l'ha pagata 190 milioni di euro, ossia il 37,5% del capitale di Aston Martin Holdings UK. In questo modo, con questo tipo di, avendo sborsato 190 milioni di euro, l'operazione riconosce un valore all'Aston Martin di circa 940 milioni di euro. Io devo tornare su una cosa che mi fa imbufalire, perché ne parlammo un anno e mezzo fa. Qui parliamo della regione Lazio, con tutto quello che si sono mangiati, lasciatemelo dire senza paura di querela, mangiati i capogruppo del PDL Batman Fiorito, tutti i suoi colleghi, anche abbiamo raccontato le spese di Elserino Montino del PD. Cioè, con quello che si sono mangiati in quella giunta, la giunta Polverini, non si riescono a trovare i soldi per l'ospedale, che a noi sta a cuore come simbolo di come non sia un problema solo di quanto spendi, ma di come spendi, cioè di come ti mangi le cose, per l'ospedale Santa Lucia, ossia un polo di eccellenza a Roma, nel Lazio, ma anche per il centro Italia, per tutti i bambini, ma non solo, che hanno problemi psicomotori. Ce ne occupammo un anno e mezzo fa perché non arriva, gli infermieri non erano pagati, cioè Fiorito, perché nevicava, comprava il SUV, ma gli infermieri, è tutto vero, gli infermieri non erano pagati e andavano avanti a lavorare senza essere pagati. Poi la Polverina è intervenuta e vabbè, mo tocca tornare a parlare di questo, e Rino Gaetano sotto la neve qui a Milano e comunque verso tutta l'Italia torna di imperio. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. Allora, i familiari dei pazienti dell'ospedale Santa Lucia, ricoverati appunto o in cura presso l'ospedale, sono abituati a combattere, no? Perché nonostante sia un polo di eccellenza, lì i soldi chissà perché arrivano sempre a fatica. Tra l'altro l'ex governatrice Renata Polverini ne aveva fatto una bella battaglia, una battaglia in campagna elettorale, aveva addirittura la t-shirt "Salviamo il Santa Lucia". Poi se n'è dimenticata negli anni, forse pensava alla mozzarella, non lo so, qualcosa d'altro. E la fondazione ha accumulato un credito, cioè deve ricevere soldi per 100 milioni di euro. Eppure, nonostante debba ricevere soldi per 100 milioni di euro e nonostante la sanità laziale sia commissariata, ci sono 300 pazienti ricoverati, 90 in day hospital, parlo di Santa Lucia, 400 che usufruiscono ogni giorno delle prestazioni ambulatoriali. Adesso il commissario straordinario ad ACTA, che è Enrico Bondi, ha operato un taglio orizzontale pari a 100 milioni a scapito delle strutture private. No, perché come dice il direttore sanitario di Santa Lucia, Antonino Salvia, un conto è operare sulle piccole strutture che hanno scarsa trazione, ma altra cosa è operare sui centri di eccellenza. Invece Bondi ha fatto una cosa che secondo me è sbagliata, anche se Enrico Bondi è stato un grandissimo manager, ha tagliato tutto del 6,85%, e quindi senza guardare se è un piccolo ospedale che non serve a nulla se non ai medici che ci lavorano o se è un centro di eccellenza, con la conseguenza che togliendo un dodicesimo del finanziamento il Santa Lucia rischia di bloccarsi, perché il 10 ottobre aveva già esaurito il tetto di spesa per le prestazioni ambulatoriali. Chiedo, non si riesce a fare in modo che un ospedale del genere, che lavora bene, che è un polo di eccellenza, resti aperto, o in questo paese bisogna sempre lavorare o tutto o niente? Chiedo. E adesso i nostri deputati, che non solo andranno a votare, non è tema di questo programma quindi non mi dilungo, manderanno il paese a votare con la vecchia legge elettorale da tutti chiamata Porcellum, la porcata, dopo che si era detto per favore almeno quello, se volete tornare ad avere un rapporto con la società più o meno civile, date la possibilità agli elettori di indicare, no, no, niente, non ce l'hanno fatta, vabbè. Che cosa succede nel frattempo? Danno un taglio al passato e cambiano poltrone, addobbi e frange. Il rinnovamento passa anche da questo, ossia dal cambiare tutti le sedi, gli scranni del Parlamento, che attualmente è rosso Bordeaux, saranno ritappezzati tutti gli arredi dei palazzi ad uso della Camera. Ogni 3 anni vengono sostituiti i tendaggi e ogni deputato, quindi nel suo percorso legislativo, vede almeno 2 tipi di tessuti. Questo mi sembra importante. Il costo di sta roba qua non sarà tantissimo, ma sono sempre 3 milioni di euro, IVA esclusa, quindi andiamo ampiamente quasi a 4. E, in scadenza del prossimo 14 dicembre l'appalto, nessuno ne sa molto e ci sono già voci che si saprebbe già a chi darlo questo appalto. Io penso che sia importante, perché il rinnovamento di una classe politica passa anche in primo luogo per il rinnovamento della tappezzeria. È come se una coppia in crisi decidesse, sai che c'è, per risolvere la crisi cambiamo le tende e il divano. Lasciatemi dire che anche gli italiani ritappezzerebbero volentieri alcuni dei nostri deputati, come si usa dire in gergo. Comunque, un applauso al ritappezzamento della Camera dei Deputati. Bravi, bravi, bravi. Avanti così. E adesso ci occupiamo di un tema che avevamo toccato ieri, riguardava il comune di Milano, nello specifico l'assessore Stefano Boeri, assessore alla cultura, perché citando un articolo uscito sul giornale raccontavamo di un'assunzione che ci aveva lasciato un po' perplessi, cioè un incarico, un contratto di tipo occasionale con inizio il 12 novembre, scadenza 31 dicembre, pagato 6.660 euro alla dottoressa Irene Ferrario, per gestire i progetti europei in campo culturale, attività legate a reti culturali italiane ed internazionali di supporto alle iniziative interculturali. Ci siamo chiesti come mai il comune, che ha 18.000 dipendenti a Milano, non riuscisse a trovare una persona in grado di fare i bandi europei e dovesse prenderla fuori a 6.600 euro, e se questo rientrava nella logica del mantenimento dei costi o taglio dei costi, per cui l'assessore Boeri ha scritto un libro che si chiama Fare di più con meno. Ci ha chiamato l'assessore Boeri, Stefano Boeri, in collegamento con noi, assessore della cultura, design, moda e design a Milano. Buonasera. Buonasera. Allora, ci dica che cosa non andava in quello che abbiamo raccontato, cioè non avete fatto un contratto con queste finalità, pagato 6.600 euro per un mese di lavoro, o meglio dal 12 novembre al 31 dicembre. Avete letto un articolo pubblicato sul giornale ieri mattina, in cui non si dicevano alcune cose importanti. Prima abbiamo fatto una ricognizione, come è doverosa all'interno dell'amministrazione pubblica, per un ruolo che per noi è fondamentale, cioè quello di un esperto di bandi europei, soprattutto sul tema cultura, multiculturalità, integrazione, che sono bandi che, proprio stando alla situazione difficilissima delle casse comunali, per noi sono vitali. E quindi era fondamentale per noi poter avere questo tipo di contributo, anche se per un tempo ridotto. La ricognizione è stata fatta in modo esteso su tutti gli uffici comunali, ha dato un esito di indisponibilità e a quel punto è stato fatto un bando, quindi non è stato fatto un affido, è stato fatto un bando pubblico, e abbiamo selezionato un professionista che ci ha dato una mano, devo dire, partendo molto prima del contratto, come lei sa benissimo succede. E questa cosa ci permetterà, già ci ha permesso di, come dire, di partecipare a 3 bandi che noi ci auguriamo naturalmente, non dico di vincere, ma dai quali possiamo ricavare i fondi fondamentali per fare le politiche sulla cultura a Milano. E tenga conto che le politiche sulla cultura non hanno più risorse pubbliche, quindi per me è fondamentale, oltre che avere un rapporto con i privati, avere un accesso ai bandi europei. Quelli di FEI, ci sono il programma quadro sulla cultura, su circa 4 milioni e mezzo, diciamo, i fondi che io mi auguro di poter ricavare per il Comune di Milano. Quindi il punto, io penso che soprattutto per non fare, come dire, delle valutazioni così superficiali, è importante dare una valutazione nel merito. Lei sa che poi questi sono contratti tecnici, vengono pagati dopo 90 giorni sulla base di un controllo, di una verifica del lavoro fatto. quindi noi siamo totalmente in regola il costo. No, questo non l'abbiamo mai detto. Noi non abbiamo mai detto, citando l'articolo del giornale, che non foste in regola, ci mancherebbe, anche perché, ripeto, il bando è tutto sul. Uno lo può scaricare dal sito del Comune di Milano. No, ci sembrava un po' alta la cifra da un lato, ma mi chiedo, adesso che lei ci ha specificato questa cosa, ma mi scusi, in un mese e mezzo, neanche scarso, perché di mezzo ci sono anche le festività, si riesce a fare tutto questo? Cioè, a giustificare... Sì, abbiamo, guardi, se vuole le faccio l'elenco preciso dei bandi su cui stiamo operando, e sono, come dire, quattro in particolare. Uno è il bando FEI sull'interculturalità di 250.000 euro, poi c'è una bando per la partecipazione a una grande mostra sull'arte europea di Capofila a Berlino per 1.800.000, una partecipazione al programma Leonardo per 300.000, programma quadro cultura europea 1.000.000. Quindi sono per noi davvero questioni fondamentali, come lei diceva giustamente, per fare di più con meno, perché noi non abbiamo più risorse pubbliche. E tenga conto che noi abbiamo fatto tutto il programma delle mostre del 2012 con 600.000 euro, tra cui anche la grande mostra su Picasso, che in cui non abbiamo speso nulla, perché siamo riusciti un po' ad avere partecipazioni di privati, un po' per l'accesso a fondi europei. Questo per noi è un elemento vitale, quindi lei capirà benissimo che il costo di un professionista specializzato in partecipazione e scambi con Bruxelles sul tema bandi per noi è fondamentale. Ecco, l'altra domanda che ho per lei, però, è, visto che lei ci ha appena chiarito molto bene quanto per voi sarà importante sempre di più nel futuro, mancando risorse interne, agganciarvi o alla partecipazione dei privati o ai fondi che l'Europa mette a disposizione, quindi diventa una cosa determinante per voi. Ma in un'ottica, non ho motivo per non credere. I privati a fare i bandi, altre possibilità. Certo. Ecco, ma a questo punto, in una logica anche un po' più di strategia, non sarebbe meglio, invece che spendere una tantum 6.600 euro, prendere formare qualcuno dentro il comune? Avete 18.000 dipendenti, e in modo che il prossimo bando non dobbiamo spendere altri 6.000 per prendere un altro collaboratore da fuori. Ma io, diciamo, se noi potessimo fare una strategia di assunzioni, mi auguro che comunque anche formare qualcuno dei dipendenti che avete. Qual è la situazione? Ma come lei sa bene, formare un esperto in bandi europei significa anche o acquisire conoscenza di chi ha avuto modo di partecipare a misure di bando, chi conosce i meccanismi, sono, come lei sa bene, procedure complesse. Però lei ha ragione, questa è certamente una prospettiva che io mi auguro che il Comune prenda in considerazione, perché è evidente che avere una base solida sarebbe di grandissimo aiuto. Anche perché, appunto, lei non ci sta parlando di una cosa così temporanea o estemporanea, ma di una cosa che nel futuro sarà la principale fonte di finanziamento assieme ai privati per voi, quindi anche ragionare di avere una struttura interna specializzata in bandi europei, per vista l'importanza della città di Milano e anche il suo ruolo internazionale, mi sembra in un'ottica prospettica un po' più lungimirante, no? Ma non c'è dubbio, tenga conto che questa è stata una determina fatta, i dirigenti del comune hanno un piccolo budget annuale a disposizione e operano con delle determine. Questo è stato l'ultimo di una determina del mio dirigente, che ha ritenuto che in quel momento a settembre non ci fosse disponibilità di competenze specifiche interne, l'ha verificato con una ricognizione e poi ha deciso di procedere con questa consulenza a tempo determinato. Però non c'è dubbio che lo scopo, la prospettiva è quella di avere un personale interno specializzato. Allora, restiamo d'accordo così, perché adesso so che lei deve andare da prima della Scala, nevica qui a Milano, e quindi, però magari immagino che questi bandi poi siano annuali. Il prossimo anno fateci sapere se siete riusciti ad avere una struttura, a creare una struttura interna in grado, appunto, di, senza aggiungere costi, che mi rendo conto che sono ripagati poi dall'eventuale vittoria di un bando, però sarebbe meglio non ci fossero neanche costi iniziali, se siete riusciti poi a creare una struttura specializzata in una cosa importantissima, lei ha fatto bene a ricordarlo, com'è l'accesso ai fondi europei, che in alcuni settori ormai, non solo l'agricoltura, anche la cultura per il Comune di Milano, diventano determinanti. Grazie all'assessore. Grazie, vi terrò informati anche sull'esito dei bandi. Grazie mille. Grazie a Stefano Boeri, assessore alla cultura, moda e design del Comune di Milano. Grazie. Sì, rispondo ad alcuni ascoltatori, gliel'abbiamo chiesto, in effetti potevo anche chiedergli se gli hanno affiancato qualcuno, perché il problema, cioè, a parte che 6.600 non so, sarà il mercato così, ma se tu non formi dentro, e gliel'abbiamo appena chiesto a Boeri, sto rispondendo a chi scrive i messaggi, se tu non formi qualcuno di questi 18.000 dipendenti, l'anno prossimo sei capo a 12 e ti tocca riprendere a 6.000, 7.000 euro un altro consulente per riuscire a vincere i bandi europei, ma porca miseria, ma si riuscirà a formare qualcuno dentro o affiancare a questa dottoressa qualcuno del comune di Milano che poi sviluppi una struttura, perché tanto serviranno sempre questi soldi, quindi è inutile fare provvedimenti una tantum, sono d'accordissimo. Dunque, non sono meno d'accordo invece con chi dice: Barisoni, come sempre vi dimostrate dei cialtroni, informatevi prima di lanciare accuse populiste puntualmente smentite. Lei è un vero cioccolataio, bravo Boeri. Cioccolataio Boeri. Mi scusi, ma io non ho capito, ma qual è la cosa che Boeri ha smentito? Perché io non l'ho capita. C'è un'assunzione a 6.600 euro. Lui ha spiegato che serve per i bandi europei, come avevamo detto. Io gli ho ribattuto che obiettivamente si poteva trovare qualcuno dentro o comunque formarlo. Non ho capito cosa abbia smentito, ma forse mi è sfuggito qualcosa. E poi c'è un invito di un ascoltatore che dice: ma basta parlare di ospedali, di sprechi da 6.000, da 10.000 euro, parlate di macroeconomia. Eh sì, bravo. Poi mi scrive anche il lavoro che fa. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco parliamo di borsa, meno 0,80% Milano nel finale, la peggiore oggi come già ieri. Devo dare però anche conto della cronaca politica, visto che la crisi di governo poi ha un impatto immediato anche sull'economia e viceversa, poi gli indicatori economici pesano anche sulle scelte politiche. Vari interventi oggi. Il leader del PD Pierluigi Bersani ha detto: muore la speranza di rinnovamento nel centrodestra italiano. Il leader, insomma, segretario, perché a questo punto dovrebbe essere Berlusconi di nuovo il leader, ammesso che non lo sia mai più stato, ma comunque il segretario del PDL Angelino Alfano ha detto: consideriamo conclusa l'esperienza del governo Monti. Allora, siccome qua ci aspettano mesi di campagna elettorale dura e pura, è la terza che facciamo in questo programma, o quarta, siamo qua dal 99, per cui dicevo, vorrei svecchiare, dare una mano ai politici un po' a svecchiarsi, perché mi sembra che anagraficamente questo rinnovamento abbia partorito un nulla, un topolino si dice. Allora usiamo, a proposito di topi, questa cosa si chiama topo morto, dead mouse. Chissà se riusciamo a svecchiare Bersani, Berlusconi, Alfano, che comunque non è proprio di spirito, non ce lo permetta così giovane, con questa musica, Dead Mouse, topo morto. Allora, il segretario Bersani dice: attenzione, il PDL è irresponsabile, non ha mai fatto autocritica, l'IMU non è una tassa di Monti, ma è una tassa messa da Berlusconi e Tremonti, e questo è parzialmente vero, la prima tranche dell'IMU la misero loro, e con la ricandidatura di Berlusconi muore ogni speranza di rinnovamento nel centro-destra italiano. Ma pensate o no di avere qualche responsabilità se l'Italia è là dove non doveva essere, sul punto più esposto della crisi? Non c'era ragione che fossimo lì. Non c'era ragione che fossimo in squilibrio di finanza pubblica, più spesa corrente, più tassazione, più debito, ancor prima della crisi. Colleghi leghisti, venite a dire di recessione? Ma lo sapete che è dal 2007 che noi perdiamo 20 punti di produzione industriale? Lo sapete che sono 5 anni buoni che il reddito delle famiglie va giù e quindi risparmi e quindi consumi? Allora, attenzione bene, ci si raccontava in quegli anni che la crisi era psicologica, che stavamo meglio degli altri. Voi ci avete raccontato questo. Siete stati degli irresponsabili. Degli irresponsabili siete stati. E ribatte il PDL: i peggiori errori di Monti sono colpa del PD. Alfano, appunto, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Napolitano: consideriamo conclusa l'esperienza del governo Monti. Questo non ha nulla a che fare con la persona di Monti, con il suo servire le istituzioni, con la sua lealtà nelle forze politiche e con noi in particolare. E poi la replica di Alfano a Bersani. Apprendiamo con una certa sorpresa che la notizia di oggi è che è morta la speranza dell'onorevole Bersani e dei colleghi di sinistra di un centrodestra migliore e più forte. Non ci eravamo mai accorti che avessero coltivato questa speranza. Hanno piuttosto coltivato la speranza di abbattere con tutti i modi un'area politica che è stata, è e siamo convinti rimarrà maggioranza in questo Paese. Ecco perché noi vorremmo dire con grande chiarezza che quando l'onorevole Bersani dice che la nostra campagna elettorale sarà fatta con slogan, con concetti di no tasse, no Europa, no regole, no comunisti, l'unica cosa che azzecca è no comunisti. E poi Casini, cioè stiamo tornando adesso, prepariamoci tutti, poi entreremo anche nella par condicio, per cui gli schieramenti, un film forse già visto, perché insomma dire Bersani, Berlusconi, Casini, non mi sembra che siano passati tutti questi anni per qualcosa, ma chi se ne frega, nel senso che tant'è la situazione. Casini dice la fiducia, il PDL l'ha tolta solo per calcoli elettorali, ha tolto la fiducia a Monti dalla sera alla mattina solo per un mero calcolo elettorale o per i provvedimenti riferiti alla incandidabilità. Attenzione, perché ieri il governo ha varato una legge su come non possono essere candidati i parlamentari che hanno ricevuto condanne superiori ai 2 anni per alcuni reati, non possono essere per 6 anni, e molti oggi scrivevano che anche questo ha fatto scattare o ha fatto suggerire a molti consiglieri di Berlusconi di levare la fiducia a Monti e scendere di nuovo in campo, ammesso che se ne fosse mai andato. Casini. Se tutto questo teatrino è servito comunque a porre le premesse per una ricandidatura di Berlusconi e una deriva del PDL verso lidi populisti anti-europei, almeno sarà fatto chiarezza. Certamente noi ci confronteremo in campagna elettorale e come sempre sarà il popolo che deciderà chi affidare il proprio futuro. Un'ultima considerazione la voglio fare, riferita una al governo e una alle forze politiche. Noi abbiamo detto all'atto di insediamento di questo governo, noi privilegeremo il dialogo con le forze che sostengono questo governo. E quindi il dialogo in questo caso con il PD, se mi sembra di capire chiaramente. Bene, vedremo come poi... Vedremo come poi da lunedì, oggi però le reazioni non ce ne sono sui mercati, inutile continuare a scrivere, lo dico ai miei colleghi, è salito lo spread perché Berlusconi scende in campo, è una balla, lo spread ieri ha preso 20 punti, li ha presi tante volte 20 punti in questi mesi anche, anche per dichiarazioni molto minori o così o per dinamiche, non diciamo cavolate, lo spread non è risalito, è a 323 punti e non voglio difendere Berlusconi, c'è chi scrive adesso... dopo aver leccato, lei ha leccato Berlusconi per anni, adesso ma che programma ha sentito lei? Non lo so. E poi c'è chi dice che sfogo la mia rabbia su quello che non funziona nel paese. No, guardi, raccontiamo anche come si sprecano i soldi degli italiani, parlando anche di ospedali, di consulenze, di forestali, di avvistatori della neve, di come erano quegli altri maestri da sci dell'Etna. E poi c'erano i trattoristi siciliani, cioè i camminatori, quelli che camminano da un ufficio all'altro con i pacchi di documenti, camminatori assunti. C'è questo paese che raccontiamo, abbia pazienza, anche questa economia. Comunque adesso c'è il traffico, poi c'è la borsa, così alcuni puristi del programma saranno contenti, e poi c'è il Censis che ci aiuterà a respirare e a capire che aria tira in Italia. Il titolo di quest'anno del rapporto Censis è un paese che si riposiziona, qualcuno ha scritto sì, si riposiziona, diciamo chi ha fatto matematica conosce che esistono tanti gradi delle posizioni, ci sono i 180 gradi, ci sono i 60 gradi, ci sono i 90 gradi. Di 17:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Ultima seduta della settimana, ripeto, ma lo dico non per difendere Berlusconi. È una balla che lo spread sia tornato a crescere dopo l'annuncio. 323 punti, sono 20 punti, 30 punti più di due giorni fa, ma è già successo decine di volte in questi mesi. Stiamo seri e non iniziamo a buttare tutto in politica e quindi in opinioni. Allora, a parte il fatto che nevica a Milano, spero che nessuno si compri il SUV, ma insomma, ricordando anche Fiorito, ci scrivono molti ascoltatori. Dimmi una cosa, Paolo, borse piatte, Milano invece come borsa è un po' negativa per l'incertezza sul governo, questo voglio dire va detto invece. Sì, esattamente, la crisi, l'incertezza come al solito non piace ai mercati, in questo momento è in corso il vertice del PDL, non si capisce quando arriverà la crisi, se quando arriverà la crisi, quando... Beh no, c'è già, insomma... Sì, è di fatto già aperta, ma insomma bisogna capire quando... Con che calendario si procederà verso nuove elezioni. In questa incertezza il mercato milanese, nonostante il clima festivo, è stato penalizzato e Milano ha chiuso con la peggiore prestazione d'Europa. Mi spieghi perché Mediaset perde così tanto? Perché ieri commentavamo che di solito quando c'è poi Berlusconi che torna in politica, il titolo ha sempre guadagnato. Non è un mistero per nessuno, cioè diciamo una cosa che è proprio nei fatti, andate a vedere l'andamento di Mediaset, sì, perde quando Berlusconi esce dalla politica, esce dal governo, guadagna quando è... Poi chiamatelo come volete, conflitto di interesse, non mi interessa, questo è il dato di borsa, fine. Oggi invece perde il 3,13% ed è il peggior titolo, come mai? Oggi perde il 3,13%, nessuno si azzarda su spiegazioni politiche in questo caso, diciamo che il titolo è andato molto bene nelle ultime settimane grazie ai giudizi positivi e oggi sono scattati dei realizzi. Non c'è quindi in questa fase, in questa giornata particolare, collegamenti con le vicende politiche, almeno secondo gli operatori per quanto riguarda il titolo Mediaset. Ancora tra gli altri titoli Mediolanum meno 3%, A2A meno 2,80%. Telecom Italia, come va il consiglio di amministrazione? Perché ieri c'è stato, come è andato, si va avanti con l'ipotesi di scorporo della rete, però... Sì, beh, diciamo che questo comunque, vista le indiscrezioni dei giorni precedenti, è stato accolto positivamente dal mercato, che temevano addirittura uno stop o comunque stop, nulla di fatto sulla rete. Invece il CDA ha dato mandato al management di verificare le condizioni per un accordo con la CDP, appunto sulla prospettiva di creare una newco per lo scorporo della rete. Questo, se si arrivasse veramente allo scorporo della rete, sarebbe positivo per Telecom, soprattutto sul fronte del debito, permetterebbe una riduzione del debito. Quindi oggi il titolo ha chiuso in lievissimo calo, meno 0,07%, facendo comunque meglio del mercato. In pregilo, qui c'è il piano industriale, in pregilo gruppo importantissimo, numero uno nelle costruzioni, più 3,41%. Sì, in questo caso proprio è l'unico titolo che è stato positivo fin dall'inizio, quindi decisamente una buona giornata, più 3,41%, il mercato ha apprezzato il piano industriale del 2015 annunciato ieri, che viene giudicato dagli analisti e dagli operatori di mercato molto aggressivo, i target comunicati sono piaciuti, il gruppo prevede di raggiungere un fatturato di circa 3,3 miliardi nel 2015 con un EBITDA superiore al 12%, stime che sono piaciute e quindi hanno sostenuto il titolo per tutta la giornata odierna. Allora, oltre a Impregilo appunto a Telecom Italia, le banche, dicevamo, banche, oggi deboli ma non debolissime, meno 1,40% il Banco Popolare, meno 1,30% Unicredit, meno 1,26% Popolare Emilia Romagna, meno 1,1% Monte dei Paschi, meno 1% Generali, meno 0,90% Intesa San Paolo. Tra i migliori e i peggiori segnalo in assoluto Banco di Desio più 6,31%, Grandi Viaggi più 5,70%, Industria e Innovazione più 4,82%, primi sui motori che ho scoperto, me l'avete scritto, è una società che si occupa di motori di ricerca. Chiedo scusa per l'ignoranza, più 4,76%, all'opposto Neurosoft meno 7%, Meridiana meno 5,90%, Antiche Pelletieri meno 4,70%. Grazie Paolo Paronetto, buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Le critiche che ho ricevuto, no, sorridevo perché di tutte le critiche che ho ricevuto in questi anni, questa, cioè, lei resta un tamarro anche sulle basi. Ma perché non le piace Deadmau5? È giovane, come la nostra politica, è giovane, quello che ascoltano i ragazzi, vuol dire topo morto. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare del rapporto annuale del Censis. Non vi dico le battute che sono volate su Facebook, SMS, dopo la mia battuta sul riposizionamento. Comunque, come ogni anno, il Censis scatta la sua fotografia del paese, fotografia sociale ed economica. Non c'è malinconia o malinconia, ma c'è riposizionamento. Questo è il titolo, infatti, del 46esimo rapporto annuale del Censis, che come sempre scatta una fotografia anche molto molto qualitativa, non tanto statistica. Lo dico sempre, l'Istat prende i numeri e li elabora, il Censis va a fare analisi anche qualitative dei comportamenti. L'anno scorso la nostra società, quella italiana, era descritta come fragile, isolata ed eterodiretta, quindi fragile, isolata, con impulsi che arrivavano dall'esterno. Nel 2010 appiattita e senza pulsioni vitali, nel 2009 addirittura replicante. Ricorderete quella definizione famosa del 2007 del Censis, la società sempre più mucilagine, sempre più invischiata, vischiosa, in cui tutto è difficile, difficile fare le riforme, difficile far apprezzare il merito, difficile cambiare un paese, appunto, vischioso, mucilaniggioso, si può dire. E queste immagini, delle volte un po' futuriste, un po' immaginifiche, sono sempre opera di chi il Censis l'ha fondato e tuttora lo presiede. Presidente Giuseppe De Rita, buonasera. Buonasera a lei. Va bene immaginifico? Immaginifico lo dicono tutti, io ritengo di essere un buon interprete più che... Va bene, allora... un inventore, naturalmente, poi l'inventore di termini deve in qualche modo entrare in causa quando l'argomento non è già definito da qualcuno. Io ricordo sempre nel 68-69 ci inventammo l'economia sommersa, nessuno sapeva cosa fosse sostanzialmente, perché tutti la vedevano ma nessuno sapeva definirla. Beh, non è cambiato, non è cambiato molto, ancora adesso noi la vediamo l'economia sommersa ma non riusciamo, diciamo, a fotografarla in pieno. Presidente, dunque partiamo proprio dal quadro di riferimento, poi andiamo anche alla politica e all'Europa, però... Voi dite 2012 l'anno del riposizionamento, mentre l'anno scorso eravamo fragili, isolati e con degli impulsi che arrivavano dall'esterno, quindi non nostri, eterodirezione, non eravamo autonomi, quest'anno ci stiamo riposizionando. Come si stanno riposizionando gli italiani e le famiglie italiane? Ma vede, il riposizionamento è figlio di un anno in cui il fatto fondamentale, l'obiettivo fondamentale era la sopravvivenza. Noi abbiamo cominciato l'anno in cui tutti avevano paura di non sopravvivere. L'imprenditore pensava che sarebbe andato fallito, lo Stato che sarebbe andato in default, le famiglie che non ce l'avrebbero fatta arrivare alla fine del mese, le banche che si vedevano limare i propri utili e pensavano che non ce l'avrebbero fatta come tante altre banche in Europa. Questa tragedia annunciata, eventi estremi, diciamo noi, come la Protezione Civile quando dice saranno eventi estremi, ha fatto sì che quegli italiani che si sentivano abbastanza fragili e anche disinteressati ai sorti del paese, alla fine si sono rimessi in gioco, perché se no non sopravvivono. È un punto basso di caduta della crisi che abbiamo usato per sopravvivere. Per sopravvivere bisogna essere un po' diversi da quello che si è prima, perché sennò si fa soltanto un tirare a campare. Per essere diversi da come si è prima bisogna riposizionarsi, quindi il riposizionamento non è altro che un esito della sopravvivenza fatta come una riproposta di vecchie forze che però ha differenze di atteggiamento e di comportamento. Questa è la spiegazione dell'anno. Quindi noi, per sopravvivere, come avviene anche nel mondo animale, ci siamo riposizionati. Un animale può cambiare luogo di caccia, tana o habitat. Noi abbiamo cambiato, tra virgolette, l'habitat anche mentale, parzialmente cambiato, ma non perché ci siamo arrivati da soli, mi faccio dire Presidente, ma perché ci hanno obbligato, tra virgolette, gli elementi esterni. Nel momento in cui non si sapeva cosa sarebbe stato di questo paese a gennaio, tra spread, appunto, banche, e guarda, uno diceva, beh, non posso star fermo, devo rimettermi in gioco. Quello che ci hanno obbligato da fuori è stata una certa stabilità. Cioè un governo stabile, con i conti in ordine, con l'immagine europea ripulita, con un accordo relativamente costante con i partner stranieri. Questa stabilità, questa sicurezza, che non abbiamo da temere attacchi o condizionamenti o fregature, se volete, o ordini dall'esterno, ha fatto sì che la popolazione normale si è dedicata soltanto a sopravvivere, non si è preoccupata, ha detto, vabbè, se c'è da far sacrifici perché la stabilità del governo e l'immagine dell'Italia all'estero ha bisogno dell'aumento della benzina, ha bisogno dell'IMU, ha bisogno della riforma delle pensioni, facciamolo pure, però non mi risolve il problema della mia sopravvivenza, che è solo mia. Allora, Presidente del Censis, Giuseppe De Rita, chiarito cosa intendete per riposizionamento? Gli italiani che si arrangiano, si rimboccano le maniche, capiscono che così non possono andare avanti. Voi avete coniato una formula molto efficace, dicevo, quella delle tre R sui nostri consumi: risparmio, rinuncia, rinvio. Mi scusi, ma alla fine gira rigira c'è sempre una non spesa o sbaglio? È sempre una spesa, ma la famiglia ha un suo modo di agire, l'abbiamo visto negli ultimi 20 anni, che ha sempre una grande razionalità. Faccio soltanto questo esempio perché è quello più impressionante dal punto di vista del riposizionamento. La famiglia che per 30 anni ha pensato ai figli come dei figli che andavano a scuola, investivano sulla scuola, poi investivano sul liceo perché era quello di qualità e poi andavano all'università e diventavano dottori, in questo momento si riposiziona privilegiando la formazione professionale, l'apprendistato e la formazione sul lavoro, perché a quel punto è più concreto, non è una rinuncia alla laurea, ma è un tentativo di cambiare, di differire dal recente passato e riproporsi in una maniera diversa, più aderente alla concreta dimensione del lavoro piuttosto che all'investimento in istruzione, che significa più anni di istruzione ma nulla di più. Questo è un riposizionamento incredibile. Ugualmente, secondo riposizionamento delle famiglie, con il welfare state, e qui il welfare state avrà sempre meno soldi, lo si vede nella sanità, lo si vede nell'assistenza ai disabili, lo si vede. Allora la famiglia si prende carico di questo problema e si riorganizza. Lo stesso meccanismo del rapporto con la non autosufficienza, non solo attraverso le badanti, ma addirittura attraverso un impegno diretto di qualcuno all'interno della famiglia, è un modo di riposizionarsi di fronte a una crisi di welfare, un welfare che però aveva sempre garantito le spalle alla famiglia, perché tutti dicevano, ma insomma, la scuola per i figli ce l'ho gratis, l'ospedale ce l'ho gratis, faccio quello che mi pare, intanto sono coperta alle spalle. Adesso che non è più coperta alle spalle, sa che deve fare in qualche modo da solo. Questo riposizionamento avviene anche, se vogliamo, sul problema dei consumi. Ecco. Il consumo oggi è un consumo che io dico che chiede ispirazione a quello che l'anno scorso chiamavamo lo scheletro contadino del paese, cioè più sobrietà e più pazienza. Il che non significa più pazienza rinviamo, no, più pazienza nel senso che invece di spendere senza per compulsione, come molto spesso abbiamo speso negli anni precedenti, si spende con pazienza, invece di spendere senza sobrietà si spende con sobrietà, che non è un meccanismo di ispirazione politica, l'austerità di Berlinguer o cambio la mentalità degli italiani di Monti, è proprio un'operazione che nasce dal di dentro della famiglia, nasce addirittura, mi sono permesso di citare una frase che potrebbe sorridere, lo scheletro contadino della società italiana. Ecco, su questo, chiara la sua indicazione, le famiglie si riadattano, si riposizionano e fanno welfare fatto in casa, è brutto dirlo perché insomma con le tasse che paghiamo, mi permetta questo inciso derita, cioè, o paghiamo meno tasse e ci facciamo welfare in casa, oppure con le tasse che paghiamo almeno il welfare dovrebbe essere garantito, cioè gli ospedali, le scuole, ma insomma adesso non voglio polemizzare. Quello, le famiglie prendono atto che lo Stato ha sempre meno soldi, garantisce sempre meno servizi e si riposizionano, se lo organizzano tra chi può, soprattutto in casa. Trovo un percorso molto pericoloso e anche molto sbagliato vista la pressione fiscale, ma tant'è. Secondo aspetto che lei ricorda, anche sulla spesa c'è una neosobrietà, per cui tu consumi, ma consumi con più calma, con più attenzione, senza quella compulsione tipica dagli anni 80 e 90, per cui compravi prima ancora di pensare perché tu stessi comprando. Voi però fotografate anche una famiglia di italiani in cui si vende l'oro, cioè oltre all'85% che ha eliminato sprechi ed eccessi, il 73% va a caccia di offerte, il 60% ha ridotto gli spostamenti per risparmiare benzina, boom delle biciclette, si vende l'oro in casa e si torna anche all'orto, a coltivare ortaggi. Ora, non è un po' una famiglia da clima di guerra questa? No, io sono sempre stato un contrario all'idea di questa ideologia dell'impoverimento. Se si prende la bicicletta non è perché non c'è la macchina che sostituisce la macchina. Se si fa una dimensione, se si spende meno soldi in autostrade con una percorrenza minima che si è accorciata di 15 o 20 chilometri, è soltanto perché la macchina si prende per le seconde cinture urbane e non per viaggi più lunghi. Il meccanismo è un meccanismo di composizione diversa dei consumi. Lei pensi una cosa che molto spesso fa sorridere, ma che invece io ritengo importante: il 23 milioni di italiani partecipano alle sagre di paese, la sagra della birra, la sagra del formaggio, la sagra delle noci, la sagra delle nocelle, la sagra di tutto, e 5 milioni di persone fanno cena con un happy hour dell'aperitivo. Che è una cosa da poveracci? Beh, insomma, al di là del giudizio del dietologo, soprattutto sulle piave dell'aperitivo, perché però obiettivamente ho capito cosa lei dice, Presidente, ma non possiamo negare che dietro questo ci sia comunque un riposizionamento dovuto a minor potere d'acquisto, eh? Cioè, nel senso, non è che queste scelte, questo è evidente, cioè, la bicicletta va bene, è un buon, non c'è niente di male nel lasciare la macchina in garage, anzi, e usare la bicicletta, ma uno lo fa 15 km meno li fa perché vuole spendere meno. Poi che il riposizionamento sia più sobrio e non solo di povertà, siamo d'accordo. Sì, ma voi... questo è evidente. Noi stiamo ragionando di un anno in cui la diminuzione del potere d'acquisto è stata fortissima. Quindi io ragiono in termini di fronte a tutto quello che è avvenuto negli ultimi 2-3 anni, diciamo pure negli ultimi 10 anni, perché è dal 2001 che noi siamo in crisi permanente. L'anno 2011 è stato l'anno in cui abbiamo tentato di mettere insieme tutte le nostre forze per sopravvivere in modo proattivo, sì, no? Sì, ho capito. Non rassegnandoci a un... non rassegnandoci all'impoverimento. E quindi si rimescola tutto, si arriva a vendere un gioiello, non sto scherzando, che si va poco, a cambiare le abitudini alimentari, così pur di reagire, non di morire lentamente. Due domande ancora prima di concludere al presidente del Censis, De Rita. Gli italiani e l'Europa, perché lei su questo ha molto insistito, siccome qua si prepara una campagna elettorale in cui l'Europa, per un verso o per l'altro, diventerà o un modello da seguire o il diavolo, qual è il rapporto nostro con l'Europa? Ma il rapporto nostro di pancia con l'Europa è un rapporto sostanzialmente negativo, ma non tanto perché ci opprimono, ci regolano i conti, ma perché hanno dimostrato come Europa di non avere potere, di essere... Insomma, un'Europa che nella crisi del 2011, a parte le operazioni di Mario Draghi, ha dimostrato di non esserci, perché vertici su vertici, a un certo punto dice: ma l'Europa ha quella sovranità che ci salva e a cui noi dovremmo cedere un po' della nostra sovranità per salvarci? No, l'Europa di oggi è è una realtà non sovrana, è una realtà un po' troppo impotente per chiederci di delegare a loro. Poi naturalmente c'è il caso che un ex allievo dei gesuiti romani, in nome Mario Draghi, quel po' di sovranità che ha, anzi ce n'ha tanto, la eserciti bene, e questo è un fatto. Sì, no, ho capito, però le dice: l'Europa da questo punto ci ha deluso. Veniamo alla domanda che tengo qua in caldo da prima, ed è chiaramente quello che sta succedendo negli ultime 48 ore. Berlusconi si ricandida, il PDL leva la fiducia al governo, si va a elezioni, ma al di là delle elezioni che tutti sapevamo ci sarebbero state, qui ci ritroveremo con ogni probabilità con Bersani che dopo una lunga lotta con Renzi, insomma, ha rivinto la tradizione, chiamiamola così, chiamiamola come volete, e dall'altra parte Berlusconi. Ora, voi fate una fotografia molto netta su questo, voi dite: l'Italia è separata in casa dalla politica, cioè per sopravvivere da una parte ci sono le istituzioni, dall'altra gli italiani che si sentono soli, lei già lo spiegava prima, cioè tutta questa forma di riposizionamento è stata fatta da soli, non con una politica che ti dice con un grande discorso di progetto, non ci hanno aiutato, alla solita arrangiatevi, no? E la politica è sempre più distante. Ora le chiedo, mi riesce a collocare con un volo, spero non troppo pindarico, quello che è successo nelle ultime 48 ore con quello che voi avete fotografato in quest'anno? Cioè una politica che va a presentarsi con la vecchia legge elettorale, il Porcellum, con leader, diciamo, conosciuti per essere buoni e che hanno governato, soprattutto nel caso di Berlusconi, per tantissimo tempo, dove il rinnovamento, al di là delle parole, Alfano è stato mangiato, diciamo, e Renzi, in una competizione assolutamente corretta, non ce l'ha fatta. Che reazione secondo lei susciterà nel corpo elettorale che già si sente separato in casa da questa politica? Ma la prima reazione, che credo posso pensare non sarà rapidissima ma sarà sicura, è che i politici, come diceva Ezechiele, fanno i pastori di se stessi. E quando i pastori pascolano se stessi, così avviene, si estraneano dalla realtà complessiva. E questo vale per tutti, vale anche per l'entusiasmo con cui abbiamo seguito le primarie, era un modo dei politici di regolare i conti dentro di loro, così Berlusconi che rientra a tentare di essere ancora un pastore di se stesso, e questa è, siccome è scritto nel rapporto, è la frase che le dico. La seconda frase, che è anch'essa scritta nel rapporto: se siamo sopravvissuti quest'anno, sopravviveremo a qualsiasi possibile o probabile governo. Beh, non è così ben augurante, io non vorrei sopravvivere, possibile o probabile dà il senso a chi pensiamo. Ecco, dico, ma non è così ben augurante, cioè io non vorrei solo sopravvivere, cioè vivere nonostante il governo, vorrei anche vivere grazie tra virgolette all'attività politica, o no, Presidente? Questo è quello, l'ultima frase del rapporto di quest'anno è quella di chiedere che questi due motori, quello del governo e quello della sopravvivenza collettiva, si mettano insieme, soltanto che noi non abbiamo, anche noi, che voi e me anche, che scriviamo sui giornali, non abbiamo nessuna misura simbolica per poter dire mettere insieme. Cosa vuol dire misura simbolica? Mi scusi. Per esempio, la frase tipica di Moro, lo sviluppo si fa governo e popolo, non è stata riproposta da nessuno, non ha più neppure oggi una sua forza, perché è una frase di 40 anni fa. Cioè nessuno propone, nessun politico propone, tra virgolette, come slogan, di governare assieme al popolo? Eh sì, questo è il questo è, e siccome noi gente comune non possiamo dire vogliamo governare con il governo, con la politica. Senta, nel concludere, Derita, secondo lei un quarto governo Berlusconi, un primo governo Bersani o un Monti bis? Ma in linea di massima, così come si vede, è un governo Bersani, però mancano 4 mesi, può succedere di tutto. Però succede di tutto all'interno del mondo della politica, non nel mondo della società normale. Grazie al presidente del Censis Giuseppe De Rita. E a tutti voi, buona serata. E a me non resta che ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Top Morto è la base nostra di oggi, chi vuole capire capisce. Dead Mouse, grandissimo DJ, buon fine settimana a tutti. Top Morto era riferito, diciamo, alle valutazioni di qui sopra. Prima ora del programma, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.